America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. After years of discussions and months of negotiations, I have little question that as long as this president is in the Oval Office, a real solution is probably unattainable. È Mitch McConnell, il capo della minoranza repubblicana al Senato, un attacco violento contro Barack Obama, una possibilità di paralisi in questo negoziato faticosissimo per raggiungere un accordo sul bilancio americano. L'attacco è chiarissimo per chi di voi ha capito l'inglese. McConnell ha detto: un accordo sul bilancio non sarà possibile fino a quando Barack Obama sarà presidente degli Stati Uniti d'America. E dunque è un attacco molto forte, perché significa che la situazione si sta complicando, perché siamo passati da un dialogo in cui si cercava in buona fede di raggiungere un'ipotesi di taglio di 4.000 miliardi in 10 anni a partire dal 2013. Poi lunedì ci si è accorti che questo non era possibile. Ieri addirittura si arriva all'ipotesi di una paralisi completa e quindi di un'archiviazione della possibilità di trovare un accordo per ridurre il disavanzo pubblico americano. Ovviamente il rischio è enorme. Sentiamo Barack Obama, che ci dà un'idea di quello che potrebbe essere il rischio in un'intervista che ha fatto ieri mattina con la CBS. I cannot guarantee that those checks go out on August 3rd if we haven't resolved this issue, because there may simply not be the money in the coffers to do it. Avete sentito il presidente? Nell'intervista dice che se per caso non si arriverà ad un accordo sul bilancio entro il 2 agosto, quando scadrà la possibilità di aumentare il tetto sul debito, bene, dal giorno immediatamente successivo, cioè dal 3 agosto, non sarà possibile pagare le pensioni, non sarà possibile inviare gli assegni mensili ai veterani di guerra, molti dei rimborsi per le spese sanitarie degli anziani saranno bloccati, non sarà possibile pagare una buona parte degli impegni debitori americani in scadenza, non si potranno pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici. Insomma, sarebbe un disastro sul piano interno, naturalmente, ma come ha detto Michael Bloomberg, sarebbe un disastro sul piano internazionale, perché se il rischio America diventa un rischio di insolvenza, beh, è una catastrofe per tutti. È possibile dunque che si arrivi a questo disastro? Non ci credo, devo dire, l'ho sempre detto nelle mie trasmissioni, non credo che sarà possibile che gli Stati Uniti arrivino al default. Qualunque sia la soluzione, una soluzione si troverà. Alla fine questo paese riesce a rimettersi in piedi, a superare le difficoltà e a evitare il rischio del baratro. In questo caso specifico, un suggerimento di soluzione viene direttamente proprio da Mitch McConnell. Sentiamolo. Legislation would authorize him to get to the amount he says he needs based upon the advice of his Secretary of the Treasury in three tranches. The first tranche, $700 billion. The second tranche, $900 billion. The third tranche, $900 billion. È in qualche modo un colpo di scena, perché la novità che propone McConnell sta nell'individuare una soluzione intermedia che finora non era stata neppure considerata. E cioè, visto che il dialogo è impossibile, un accordo non si potrà fare, allora togliamo questa pregiudiziale e diamo a Barack Obama l'autorità di innalzare il tetto sul debito per 2.500 miliardi di dollari. McConnell propone tre tranche, una tranche da 700 miliardi di dollari, un'altra da 900 miliardi e poi un'altra ancora da 900 miliardi di dollari. Chiede ovviamente qualcosa in cambio, cioè chiede che Barack Obama si impegni in qualche modo a ridurre il disavanzo pubblico federale dei 2.500 miliardi che lui concede in aumento al tetto sul debito. Però non chiede un voto del Congresso e dunque in qualche modo è una concessione gratuita. Ecco, la soluzione ovviamente è creativa, impedisce il default americano. Però è chiaro che qui c'è qualcosa di molto più importante che sta capitando. Si stanno affilando i coltelli per le elezioni presidenziali del 2012, per le elezioni al Senato e alla Camera del 2012. McConnell ha sempre detto che per lui Barack Obama poteva essere un presidente soltanto di un term, ha sempre cercato di recuperare la maggioranza repubblicana al Senato, non c'è riuscito nelle ultime elezioni, si è sentito in qualche modo spiazzato dall'uomo potente, dal vero uomo potente del Partito Repubblicano, cioè da John Boehner, che governa la Camera, il presidente della Camera, ha una maggioranza forte, e dunque ecco che McConnell decide di giocare un ruolo da protagonista. Ci sono stati altri negoziati, secondo me alla fine si cercherà di andare avanti, ripeto, indipendentemente dal fatto che si trovi o meno un accordo adesso sul bilancio, si troverà la formula per evitare il default del governo americano. The near term effect would almost certainly be a very sharp resumption of the kinds of instabilities we saw in 2008. E allora lasciate che sia provocatorio fino in fondo, perché si continua e continuiamo noi stessi nella stampa, nei media, a seguire questo minuetto, questo gioco delle parti a Washington fra repubblicani e democratici, che pure sanno che al default poi non ci si arriverà. Ma per che cosa? Beh, secondo me per coprire un problema ben più importante, perché qui altro che rischio di default americano, qua il problema serio è quello dell'economia. L'equazione economica si fa sempre più complessa, perché se da una parte si deve tagliare il disavanzo pubblico, beh, dall'altra non si può abbandonare a se stessa un'economia che torna in area double dip. Che fare dunque? Beh, ecco, qui c'è una tesi che circola a Wall Street, e cioè, avete sentito prima la voce di Ben Bernanke, bene, dietro le quinte c'è sempre il pompiere, il governatore della Federal Reserve, è già pronto, mi dicono, con una manovra QE3 in caso di una brutta combustione sul fronte della crescita. E di questo devo dire alla Fed ne sono convinti. Nel mio passaggio a Washington ho avuto alcune conversazioni con personaggi molto vicini alla Fed, e si sta pensando di ripetere un'iniezione di liquidità di forse 600, forse 700 miliardi di dollari. Il corollario di questo è che i tassi di interesse resteranno a questi livelli minimi, non si procederà con un aumento, se la Banca Centrale Europea continuerà a stringere il differenziale si allargherà, e dunque vediamo che sulle due sponde dell'Atlantico torna ad emergere una filosofia piuttosto diversa. Una domanda di fondo con cui vi lascio come riflessione: ma visto che questa manovra da 600 miliardi del QE2 alla fine non ha funzionato, perché il tasso di disoccupazione è tornato al 9,2%, perché dovrebbe funzionare una QE3? Ma la risposta forse è che quantomeno si cerca di evitare un crollo verticale dell'economia. La stabilità è meglio di una recessione o comunque di un double dip. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il rapper Talib Kweli ha comunicato su Twitter alcuni dettagli del suo nuovo album. Si chiamerà Prisoner of Conscience, e dunque a Talib Kweli, in onore del suo nuovo album, vi faccio ascoltare Get By. We sell crack to our own out the back of our homes. We smell the musk of the dusk and the crack of the dawn. We go through episodes too, like Attack of the Clones. What till we break a bag and you hear the crack of the bone. To get by, just to get by, just to get by, just to get by. We commute the computer, spirits stay mute while your ego spread rumors. We survivalists turn to consumers. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. Why some people gotta live in a trailer, cuss like a sailor. I paint a picture with a pen like Norman Mailer. Me and Wella raised three daughters all by herself with no help. I think about the struggle and I find the strength of myself. These words melt in my mouth, they hot like the jail cell in the south before my nigga core bailed me out. But to get by, just to get by, just to get by, just to get by. I'm do or die like Best Stars. See the red sky out the window of the red eye, like the lead flies. G-rap shit, living the lead now. Evil is side. The better people you find, stronger people in mind. I'll stay reading the sign. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!